me me me me me me me me me me me me Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesco. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo, questo è il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata quella di oggi dedicata ai Grammy Awards, ovvero uno dei premi più importanti per la discografia internazionale, e ne parliamo proprio perché non più di una decina di giorni fa, esattamente il 26 di gennaio, allo Staples Center di Los Angeles c'è stata una fastosa cerimonia e quindi la consegna di questo prestigioso premio. A far man bassa di premi, i vincitori più acclamati della serata californiana sono stati i Daft Punk, che grazie alla super hit Get Lucky e all'album Random Access Memories hanno trionfato in diverse categorie, ovvero disco dell'anno, migliore performance pop, album dell'anno, migliore album di dance elettronica e anche un premio importante, quello che viene assegnato alla migliore produzione discografica per quanto riguarda il suono. Quindi l'ingegnere del suono che ha curato Get Lucky con i Daft Punk ha portato a casa il premio più importante per la sua carriera. E oggi parliamo dei Grammy Award anche perché alcune produzioni, alcuni dischi, alcuni artisti che noi abbiamo presentato in questi primi mesi di Soundcheck hanno portato a casa la famosissima statuetta che ha la forma del grammofono. Ma prima di presentarvi quindi Gregory Porter, lo diciamo subito, che ha vinto il premio come Best Vocal Jazz Album, un premio importantissimo per lui ma anche per noi, vediamo che cosa sono i Grammy Award. Dunque, il Grammy è uno dei premi più importanti degli Stati Uniti, ma anche uno dei premi più importanti al mondo, che si ottiene per i risultati conseguiti proprio nel settore dell'industria musicale. Originariamente il Grammy Award era chiamato Gramophone Award ed è presentato proprio dalla National Academy, detta anche Recording Academy, che è un'associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale. Generalmente è considerato come l'equivalente dei premi Oscar nel mondo del cinema. I Grammy Awards, Billboard Awards, American Music Awards sono i tre principali riconoscimenti musicali statunitensi, ma quando un artista, una produzione discografica si accaparra il Grammy, beh, i giochi sono fatti. Quindi nel caso del nostro Gregory Porter, che già aveva ottenuto varie nomination nella passata stagione, e insomma il risultato è eccellente, perché con Liquid Spirit porta a casa quest'anno Best Vocal Jazz Album, è una bellissima nomination anche fra The Best Traditional R&B Performance con il brano Hey Laura, anche questo inserito in Liquid Spirit. Allora diamo il via all'appuntamento di oggi facendo i nostri complimenti vivissimi a Gregory Porter, naturalmente alla sua casa discografica, la Blue Note, alla Universal. Auguri a tutti per questo premio importantissimo. Gregory Porter, già ospite del Soundcheck qui con Liquid Spirit e Hey Laura. Listening to Soundcheck. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait with a healthy dose of make believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. vincitore di questa edizione delle Grammy Award con Best Vocal Jazz Album, Gregory Porter, già ospite del soundcheck di Radio 24. Facciamo una breve pausa e continuiamo a verificare alcuni artisti preferiti nella nostra rubrica musicale che quest'anno al Grammy Award, insomma, se la sono cavata niente male. Soundcheck. Il suono della musica. Gregory Porter si è accaparrato all'ultima consegna dei Grammy Awards il premio importantissimo Best Vocal Jazz Album. Anche Bobby McFerrin, qui con la voce di Esperanza Spalding, per il suo album Spiritual porta a casa una statuetta. Esattamente, la statuetta l'ha vinta, a dire la verità, l'arrangiatore dell'album, il bravissimo Gil Goldstein, che quindi vince il premio come miglior arrangiamento strumentale per il supporto delle voci, con questo brano intitolato Swing Low. E quindi anche Gil Goldstein riesce a mettere nella sua bacheca a casa questa bellissima statuetta sotto forma di grammofono. Infatti per questo si chiama Grammy Awards, perché il premio è rappresentato proprio da un piccolo grammofono che ogni anno viene realizzato a mano da una casa americana, una piccola fabbrica che si chiama Billings Artworks. I Grammy vengono consegnati per 105 diverse categorie di contributi, suddivise poi rispetto ai 30 generi musicali, che vanno dal pop al gospel, all'hip hop, al rap, rhythm blues, anche musica cristiana. E quindi, come nel caso degli Oscar, la scelta del vincitore è affidata a una votazione di esperti, in questo caso proprio membri della Recording Academy. La cerimonia di consegna dei premi coinvolge nomi celebri del mondo della musica e la consegna dei premi più importanti viene solitamente trasmessa in diretta televisiva, e ancora oggi i diritti della consegna dei premi dei Grammy Award in televisione è a opera della CBS, che poi naturalmente vende lo spettacolo alle varie televisioni per la distribuzione internazionale. Quindi, che significa che i premi più importanti, come miglior album dell'anno, le varie categorie che vanno dal pop all'R&B e al country, vengono celebrate anche con la diretta televisiva, ma poi i premi si riferiscono a altre categorie meno importanti ma di grande prestigio per chi poi si accaparra questo premio importante. Un altro album che noi abbiamo segnalato qui al soundcheck di Radio 24, che porta a casa un premio importantissimo, miglior album di blues dell'anno, è questa produzione intitolata Get Up, con un formidabile musicista come Ben Harper, che incontra un veterano come Charlie Musselwhite e la sua armonica bocca. Eccoli qui, Ben Harper, Charlie Musselwhite, Best Blues Album quest'anno ai Grammy Award con Get Up. Soundcheck, il suono della musica. E stiamo celebrando il Grammy Awards, consegnati i premi più prestigiosi della discografia internazionale proprio una decina di giorni fa allo Staples Center di Los Angeles. Alcuni artisti che noi abbiamo segnalato in questi primi mesi di programmazione del nostro soundcheck hanno portato a casa dei premi, da Gregory Porter a Bobby McFerrin a Ben Harper con miglior album blues dell'anno e la partecipazione di Charlie Musselwhite. E vediamo ancora chi fra i nostri beniamini è riuscito a a posizionare sulla propria bacheca, sulla propria credenza, questa bellissima, importantissima statuetta che rappresenta un grammofono d'oro. Intanto, secondo alcuni, proprio la giuria dei Grammy tende a votare in modo troppo conservatore, perlomeno fino a qualche anno fa, basandosi quasi più sulla fama degli artisti votati che su elementi strettamente tecnici e artistici. Di conseguenza, alcuni musicisti ostentavano e ostentano una certa indifferenza verso questo premio. Un po' come succede in piccolo da noi, certi artisti evitano di partecipare al Festival di Sanremo perché probabilmente potrebbe essere insomma qualcosa che non ha tanto a che fare con la propria caratura artistica. Però poi vincere anche il premio di Sanremo nel nostro piccolo ha la sua bella importanza per la diffusione della propria musica, ed è quello che succede in grande con la vittoria del Grammy Award. Infatti alcuni fra i più celebri musicisti della storia hanno ricevuto pochissimi Grammy Awards, fra questi anche proprio Elvis Presley, Elton John, Pink Floyd, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin e Genesis, parlando di grandi nomi che appartengono al rock e al pop, quindi potete immaginare anche per le categorie inferiori. Ma veniamo a noi, un altro premio formidabile, e di questo sono veramente contento: Best R&B Performance. Ebbene, la migliore performance R&B dell'anno l'hanno vinta una delle mie band preferite, si chiamano Snarky Puppy, e più volte abbiamo suonato al soundcheck questo album bellissimo intitolato Family Dinner, registrato dal vivo, e il brano che vince proprio Best Performance per l'R&B è il brano Something, brano scritto molti anni fa da David Foster e Brenda Russell, qui interpretato da una signora che noi abbiamo celebrato proprio qualche puntata fa, la formidabile Leila Hathaway, and Snarky Puppy, Best R&B Performance quest'anno ai Grammy Awards. Abbiamo raccontato al soundcheck di oggi alcune produzioni discografiche che noi abbiamo presentato nella nostra rubrica, che hanno portato a casa la prestigiosa statuetta sotto forma di grammofono lì nella consegna dei Grammy Awards una decina di giorni fa allo Staples Center di Los Angeles. E dopo Snarky Puppy e Leila Hathaway, che hanno vinto Best R&B Performance, chiudiamo con Christian McBride. Sì, perché Out Here, album che noi abbiamo ascoltato qui al soundcheck, non ha vinto il Grammy Award, però era fra gli album presentati con una bella nomination in questa edizione dei Grammy Award. Per quanto riguarda Best Jazz Instrumental Album, la statuina è andata alla bravissima batterista Terry Lynn Carrington con l'album Money Jungle Provocative in Blue. Ma chiudiamo con Christian McBride e il suo trio, un brano splendido dal sapore vagamente soul ma il piglio jazz tipico di questo meraviglioso musicista americano. Il brano si intitola Who's Making Love. Ecco, Christian McBride Trio, io vi saluto, vi auguro buona giornata e buona musica. Check. Il suono della musica.